Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Nell'ultima ora il caldo aveva fatto un balzo. La strada era deserta, come se durante quella conversazione inconcludente una catastrofe avesse spazzato via l'umanità. Di fronte al bungalow di Aziz c'era una grande casa in costruzione che apparteneva a due fratelli astrologhi e uno scoiattolo ne spenzolava all'ingiù, premendo la pancia contro le impalcature scottanti e arricciolando la coda spelacchiata. Sembrava l'unico occupante della casa e i suoi squittii erano in armonia con l'infinito, senza dubbio, ma gradevoli solo ad altri scoiattoli. Altri suoni venivano da un albero polveroso, dove uccelli scuri stridevano e si affaccendavano alla ricerca di insetti. Un altro uccello, l'invisibile calderaio, aveva cominciato il suo toc-toc. Alla maggioranza delle creature viventi importa assai poco quello che desidera o decide la minoranza che si definisce umana. La più gran parte degli abitanti dell'India non si cura di come l'India è governata. Nemmeno in Inghilterra gli animali inferiori si preoccupano dell'Inghilterra, ma ai tropici l'indifferenza è più evidente. Il mondo inarticolato è più a portata di mano e più pronto a riprendere il sopravvento non appena gli uomini sono stanchi. Quando uscirono dal bungalow, i sette gentiluomini che vi avevano sostenuto opinioni così diverse si resero conto di un comune fardello, di una vaga minaccia che definirono «Sta arrivando la brutta stagione». Sentivano di non poter fare il loro lavoro o che non sarebbero stati sufficientemente retribuiti per farlo. Lo spazio tra loro e le vetture, anziché vuoto, era ingombro di un qualcosa che premeva contro le loro carni. I cuscini delle carrozze scaldavano maledettamente i loro calzoni, gli occhi bruciavano, calotte di acqua calda si accumulavano sotto le loro acconciature e scorrevano lungo le loro guance. Con inchini fiacchi si dispersero verso l'interno di altri bungalows per riconquistare la stima di se stessi e le caratteristiche che li distinguevano l'uno dall'altro. In tutta la città e in gran parte dell'India stava cominciando la stessa ritirata del genere umano negli scantinati, sulle colline, sotto gli alberi. Aprile, l'araldo degli orrori è alle porte. Il sole tornava sul suo trono, potente ma privo di bellezza. Quello era il particolare sinistro. Se almeno avesse avuto un po' di bellezza, allora la sua crudeltà sarebbe stata sopportabile. Per eccesso di luce falliva lui pure al suo trionfo. In quello straripamento bianco-giallastro annegava non solo la materia, ma lo stesso splendore. L'irraggiungibile amico, né degli uomini né degli uccelli né di altri soli, era l'eterna promessa, l'imperitura ispirazione che ossessiona la nostra coscienza. Era una semplice creatura come tutte le altre e perciò escluso dalla gloria. Hear my cry, let cani se n'erano andati e Fielding vedeva il proprio cavallo in una piccola capanna nell'angolo del giardino, ma nessuno si curava di portarglielo. Si mosse lui per andare a prenderlo, ma un richiamo dalla casa lo fermò. Aziz stava seduto sul letto, scarmigliato e triste. «Questa è casa vostra», disse sardonico. «Ecco la famosa ospitalità dell'Oriente. Guardate le mosche, guardate l'intonaco che si stacca dai muri, magnifico, vero? Credo che vorrete andarvene adesso che avete visto una casa orientale». «Comunque», rispose Fielding, «voi avete bisogno di riposare». «Oh, posso riposare tutto il giorno, grazie al degno dottor Lal, la spia del maggiore Callender. Lo saprete, immagino. Però stavolta non ha funzionato. Mi è concesso di avere un po' di febbre». «Callender non si fida di nessuno», rispose Fielding, «né inglese né indiano. È fatto così, e mi dispiace che siate alle sue dipendenze, ma lo siete, e questo è quanto». «Prima di andarvene, visto che evidentemente avete molta premura, vi dispiace di aprire quel cassetto? Vedete sopra un cartoncino scuro? Sì? Apritelo. Chi è?» «Era mia moglie. Voi siete il primo inglese davanti al quale sia mai comparsa. Ma adesso riponete quella fotografia». Fielding rimase stupefatto, come un viaggiatore che d'improvviso tra i sassi del deserto scorga dei fiori. I fiori ci sono sempre stati, ma d'improvviso lui li vede. Cercò di guardare la fotografia, ma in se stessa non era che una donna in sari, con gli occhi fissi sul mondo. Mormorò: «Francamente, non so perché mi facciate questo grande onore a Ziza, ma lo apprezzo molto». «Oh, non è nulla, non era una donna molto colta e nemmeno molto bella, ma riponetela. L'avreste vista, e quindi perché non dovreste vedere la sua fotografia? E voi mi avreste permesso di vederla, a Ziza?» «Perché no? Io credo nel sistema del Parda, la tenda che cela le nostre donne agli estranei, ma le avrei detto che eravate mio fratello e lei vi avrebbe visto. Hamidullah l'ha vista e anche parecchi altri». «Credeva che fossero vostri fratelli?» «No, naturalmente, ma la parola esiste e torna comoda. Tutti gli uomini sono miei fratelli e non appena uno si comporta come un fratello può vedere mia moglie. E quando tutto il mondo si comporterà così, non ci sarà più Parda?» azzardò Fielding. «Vi faccio vedere la fotografia», riprese Aziz, «proprio perché potete dire e pensare una cosa del genere. Supera le possibilità di quasi tutti gli uomini. A voi la faccio vedere proprio perché vi comportate bene, mentre io mi comporto male. Poco fa, quando vi ho chiamato, non mi aspettavo che tornaste indietro. Ho pensato: non vorrà più saperne di me, l'ho offeso». «Mr. Fielding, nessuno può capire quanto bisogno di bontà abbiamo noi indiani. Non lo capiamo nemmeno noi, ma quando ci è data lo sappiamo, non dimentichiamo, anche se qualche volta può sembrare. Bontà, ancora bontà e sempre ancora bontà, vi assicuro che è l'unica speranza». La sua voce sembrava venire da un sogno, mutandola, ma ad un livello che rimaneva ancora al di sotto della superficie normale, disse: «Non possiamo costruire l'India se non su quello che sentiamo». «A che servono tutte queste riforme e comitati d'intesa per la festa del Mohurram e tutti i consigli di notabili e le riunioni ufficiali dove gli inglesi ridono della nostra pelle?» Fielding rispose: «Significa cominciare al rovescio, vero? Lo so, ma le istituzioni e i governi non lo sanno». E tornò a guardare la fotografia. Thank you. signora fissava il mondo come il marito e lei stessa desideravano, ma quanto lo trovava sconcertante, quel mondo tutto echi e contraddittorio. «Riponetela, lei non ha importanza, è morta», disse Aziz gentilmente. «Ve l'ho mostrata perché non ho nient'altro da mostrare. Ora potete frugare tutto il mio bungalow e buttare all'aria ogni cosa. Non ho altri segreti. I miei 3 figli vivono lontani con la nonna e questo è tutto». Fielding si sedette vicino al letto, lusingato dalla fiducia che si riponeva in lui, ma un po' triste. Si sentiva vecchio. Magari avesse potuto lasciarsi trasportare anche lui su onde di commozione. Al loro prossimo incontro, forse Aziz sarebbe stato cauto e riservato. Lo capiva, e il capirlo lo rendeva triste. Bontà, bontà e ancora bontà, sì, lui poteva anche darne, ma era proprio vero che quello strano popolo non aveva bisogno di altro? Non chiedeva anche ogni tanto un'intossicazione del sangue? Che cosa aveva fatto lui per meritare quello sfogo di confidenza e quale pegno poteva dare in cambio? Riandò con la mente alla propria vita. Che povera messe di segreti aveva dato. C'erano cose che non aveva mostrato a nessuno, ma erano talmente insignificanti. Non valeva la pena di alzare un parda per svelarle. Era stato innamorato, sul punto di sposarsi. La signorina aveva rotto il fidanzamento e ricordarla e pensarla per un certo tempo l'avevano tenuto lontano da altre donne. Poi l'indulgenza, seguita dal pentimento e dall'equilibrio. Ben poca cosa, salvo l'equilibrio. E non erano certo queste le confidenze che voleva Aziz. Le avrebbe definite ogni cosa gelidamente disposta sugli scaffali. Non raggiungerò mai una vera intimità con quest'uomo, pensò Fielding. E poi, né con altri. Questo era il corollario. E dovette confessarsi che non gliene importava, che era soddisfatto di aiutare la gente e di trovarla simpatica finché non faceva resistenza, e se faceva resistenza, di lasciarla perdere serenamente. L'esperienza serve molto, e tutto quello che aveva imparato in Inghilterra e in Europa gli riusciva utile e lo aiutava alla chiarezza, ma la chiarezza gli precludeva altre esperienze. «Vi sono piaciute le 2 signore che avete conosciuto giovedì scorso?» domandò. Aziz scosse il capo con disgusto. La domanda gli aveva ricordato la sua frase imprudente sulle grotte Marabar. «Vi piacciono le donne inglesi, in generale?» «Ad Hamidullah piacevano in Inghilterra. Qui non le guardiamo mai. Oh no, ci mancherebbe. Parliamo d'altro.» «Hamidullah ha ragione», rispose Fielding. «Sono molto più carine in Inghilterra. Qui c'è qualcosa che per loro non va.» Aziz, dopo un altro silenzio, disse: «Come mai non siete sposato?» Piacque a Fielding che gliel'avesse domandato. «Perché in un modo o nell'altro sono riuscito a farne a meno», rispose. «Pensavo proprio che un giorno o l'altro vi racconterò qualcosa di me, se potrò renderlo abbastanza interessante. La signorina che mi piaceva non ha voluto sposarmi. Questo è il nocciolo, ma sono passati 15 anni e non significa più niente.» Ma non avete figli? Eh no. Scusate questa domanda. Avete figli illegittimi? No. Non esiterei a dirvelo se ne avessi. Allora il vostro nome si estinguerà completamente. Per forza. Ah, bene. Crollò il capo. Questa indifferenza noi orientali non la capiremo mai. Non me ne importa dei figli, riprese Fielding. Non si tratta che importi, disse Aziz spazientito. Non sento la loro mancanza, insiste Fielding. Non li voglio in lacrime intorno al mio letto di morte, né commemorativi quando non ci sarò più, come credo che sia ad uso. Preferirei lasciare memoria di me, piuttosto che un figlio. C'è tanta gente che può avere figli. Non è indispensabile con l'Inghilterra che sta diventando sovrappopolata e si scatena sull'India in cerca di lavoro. Perché non sposate Miss Quested? Se ne uscì Aziz. Oddio santo, è una saccentona quella ragazza. Saccentona? Saccentona? Riprese Aziz. No, no, spiegatevi per piacere. Non è una parola insolente? Oh, non che la conosca, riprese Fielding, ma mi ha colpito come uno dei più patetici prodotti dell'educazione occidentale. Mi deprime. Ma saccentona, Mr. Fielding, cosa vuol dire? E chiacchiera, come se tenesse sempre una conferenza, facendo sforzi disperati per capire l'India e la vita e prendendo ogni tanto qualche appunto. Era parsa così gentile e sincera, replicò Aziz. Probabilmente lo è, disse Fielding, vergognandosi della propria asprezza. Ogni accenno di un possibile matrimonio provoca sempre asserzioni esagerate da parte dello scapolo e un certo nervosismo mentale. E poi non potrei sposarla neanche se volessi, perché si è appena fidanzata col magistrato di città. Davvero? Me ne rallegro tanto, esclamò Aziz con sollievo, perché questo lo esonerava dalla gita a Marabar. Non ci si poteva certo aspettare che invitasse anglo-indiani regolarmente residenti. È un colpo della vecchia madre. Aveva paura che quel caro figliolo scegliesse di testa sua, così ha portato qui la ragazza e li ha messi l'uno vicino all'altra finché la cosa non è successa. Tra i suoi progetti, Mrs. Moore non mi aveva parlato di questo, disse Aziz. Può darsi che sia io a sbagliare, rispose Fielding. Sono fuori dai pettegolezzi del circolo, ma ad ogni modo sono fidanzati. Eh sì, ne siete proprio fuori, mio povero amico, sorrise Aziz. Niente Miss Quested per Mr. Fielding. Oh, del resto, non è bella. Praticamente non ha seno, se ci pensate. Sorrise anche Fielding, ma trovò leggermente di cattivo gusto quell'accenno al seno di una signora. Forse per il magistrato di città andrà bene, e così pure lui per lei, ma per voi troverò una signora con dei seni come manghi. Aziz prese un nuovo atteggiamento verso il suo amico, l'atteggiamento del protettore che conosce i pericoli dell'India e mette in guardia. Non sarete mai abbastanza cauto, Mr. Fielding, in tutti i sensi. Qualunque cosa diciate o facciate, in questo maledetto paese c'è sempre qualche invidioso che vi tiene d'occhio. Forse vi stupirete di sapere che qui dentro c'erano almeno 3 spie quando siete arrivato. Sono rimasto veramente sconvolto nel sentirvi parlare di Dio a quel modo. Certamente andranno a riferirlo. A chi? Fin qui niente di male, ma voi avete parlato anche contro la moralità. E avete detto che siete venuto a portare via gli impieghi agli altri, tutte cose molto imprudenti. Qui qui è un posto tremendo per gli scandali. Grazie di avermi detto tutto questo. Sì, bisognerà che cerchi di essere più cauto. Ma se una cosa mi interessa, io sono il tipo che passa i limiti. Tuttavia, non è un gran male. Ma parlare così francamente può mettervi nei guai. Non sarebbe la prima volta. Ragione di più, ma stavolta può costarvi l'impiego. Pazienza, non morirò per questo. Non ho bagagli. Non ho bagagli. Siete proprio una razza straordinaria, disse Aziz, voltandosi come se si preparasse a dormire, ma tornando subito nella posizione di prima. Dipende dal vostro clima o da che cosa? Ci sono anche molti indiani che non hanno bagagli, i santoni e simili. È una delle cose che ammiro nel vostro paese. Ogni uomo si sente senza bagagli finché non ha moglie o figli. Questo è uno dei miei capi d'accusa contro il matrimonio. Io sono un santo senza la santità. Riferitelo alle vostre tre spie e ditegli che se lo ficchino bene in testa. Aziz era affascinato e interessato e rigirò quella nuova idea nella sua mente. Dunque era per questo che Mr. Fielding e alcuni altri erano così coraggiosi. Non avevano niente da perdere. Ma lui aveva le sue radici nella società e nell'Islam. Apparteneva a una tradizione che lo vincolava e aveva messo al mondo tre figli, la società del futuro. Sebbene vivesse in modo così vago in quello squallido bungalow, tuttavia era radicato, radicato. «Non posso essere licenziato dal mio lavoro», disse Fielding, «perché il mio è un lavoro di educatore. Io credo che si possa insegnare a essere individui e a capire altri individui. È l'unica cosa in cui credo. All'istituto governativo io mescolo tutto questo con la trigonometria e le altre materie. E quando sarò un santone lo mescolerò con qualche altra cosa». Finì il suo proclama e rimasero tutte e due in silenzio. Le mosche erano diventate ancora più insopportabili. Danzavano davanti alle loro pupille, si insinuavano nelle loro orecchie. Fielding le colpiva quasi selvaggiamente. Quella ginnastica lo accaldava e si alzò per andarsene. «Forse potreste dire al vostro servo di portarmi il cavallo. Pare che non apprezzi il mio urdu», Fielding chiese ad Aziz. «Sì, lo so, gliel'ho ordinato io. Ecco i tiri che giochiamo agli sfortunati inglesi». «Povero Mr. Fielding», riprese Aziz. «Adesso vi lascio libero». «E che volete? All'infuori di voi e di Hamidullah, in questo posto non ho nessuno con cui parlare». «Vi piace Hamidullah, vero?» «Molto». «Promettete di venire subito da noi quando sarete in difficoltà?» «Oh, non potrò mai essere in difficoltà». «Ecco uno strano tipo. Spero proprio che non andrà a cercarsi guai», pensò Aziz rimasto solo. La fase dell'ammirazione era finita e lui tornava a sentirsi protettivo. Gli era difficile continuare a provare soggezione di chi giocava a carte scoperte. Conoscendolo meglio, si accorgeva che Fielding era sinceramente cordiale e alla mano, ma non certo quello che si può chiamare un uomo saggio. Quei discorsi così espliciti, alla presenza di chiunque, erano pericolosi e senza stile. Non approdavano a niente di utile. Ah, ma erano amici, fratelli. Questo era deciso. Il loro patto era stato sottoscritto dalla fotografia. Si fidavano reciprocamente. Una volta tanto, l'affetto aveva vinto. Si buttò giù per addormentarsi tra i più felici ricordi di quelle ultime due ore. La grazia femminile, il buon vecchio Hamidullah, il buon Fielding, la sua venerata moglie e i suoi cari figli. Passò